te, delle cose che pensi, parlami di te, ti fa bene parlare, dimmi cosa fai quando tu mi sei lontano, dimmi se di lei ti è rimasto il rimpianto, parlami di te, dei tuoi sogni perduti, dimmi se con me credi ancora alla vita.